Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. La voce dell'innovazione, Nova Lab 24, Luca Tremolada e Luca Dello Iacovo al microfono. Insomma, adesso sveliamo un po' le carte. Parleremo anche oggi di spin-off. Poi cosa facciamo con gli spin-off? Facciamo un percorso che passa attraverso quattro elementi che sono acqua, aria, terra, fuoco. Iniziamo dall'acqua. Molto sanfrancescano, quindi cerchiamo, poi magari recitiamo anche qualche poesia, insomma, vediamo. Però insomma, l'intento è quello di raccontare l'innovazione, la ricerca, i piccoli che si spinoffano dall'università. Gli universitari che poi iniziano un percorso diverso e quindi si lanciano poi nel mondo dell'impresa e quindi scommettono anche sulle conoscenze e sull'innovazione. E noi facciamo sentire la loro voce, vediamo come parlano, cosa ci dicono, ma prima di andarli a conoscere sentiamo le news. Record di visualizzazioni per YouTube. Il sito di condivisione di filmati mostra ogni giorno 2 miliardi di video. Se fosse un motore di ricerca sarebbe il secondo al mondo. YouTube ha appena raggiunto i 5 anni di attività. È stato comprato da Google nel 2006, dopo un anno e mezzo dalla fondazione, per 1,6 miliardi di dollari. Avviato in Israele il più grande impianto al mondo per la desalinizzazione delle acque marine. Utilizza un sistema di osmosi inversa e fornirà 127 milioni di metri cubi di acqua all'anno, quasi un quinto dei consumi domestici nazionali. La fonte per le attività dell'impianto è il Mar Mediterraneo. Una scansione tridimensionale degli alveari in tempo reale. La tecnologia sviluppata da un team di ricercatori svizzeri e inglesi consente di visualizzare singole api e tracciarne i movimenti durante la giornata. Il risultato è una sequenza di immagini a colori, in grado di mostrare gli spostamenti all'interno degli alveari, senza interferenze dall'esterno. Partiamo con le piante spazzine. Sì, delle piante che depurano l'acqua e che sono quindi un sistema ecologico per la depurazione di scarichi che possono essere sia civili che industriali. Qui con noi abbiamo Davide Tocchetto, ricercatore di PAN. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Voi dove siete? Noi siamo a Padova, presso l'incubatore universitario d'impresa. Perfetto. Quanti anni avete? Nella media sui 35, e poi c'è qualcuno che ne ha di più e qualcuno di meno. Sì, comunque l'età media insomma è quella. Sentiamo una scheda per capire cosa vi siete inventati, poi torniamo in studio. Piante spazzine contro l'inquinamento delle acque. Ripuliscono scarichi urbani e industriali attraverso le radici. A lanciare il progetto è stata PAN, un'azienda nata dall'Università di Padova. Ha brevettato da poco una piattaforma galleggiante costruita con materiale biodegradabile. È lo spazio che accoglie le piante. La barriera verde sopporta cambiamenti climatici, chimici e biologici, ma può diventare anche un isolotto ornamentale. PAN ha ricevuto il premio Hypo Innovazione, dedicato agli spin-off universitari del Nord-Est. Il suo team riunisce 5 ricercatori impegnati nella consulenza ambientale e nella fitodepurazione. Allora, quindi insomma le piante che ci aiutano nella lotta all'inquinamento, il che è molto bello, no? Come immagine, cioè nel senso utilizziamo la natura per combattere gli scarichi dell'uomo, poi nella realtà è un po' più complicato anche da un punto di vista industriale. E anzi, sarebbe interessante capire poi che tipo di piante sono quelle che vengono utilizzate per la depurazione, cioè sono piante che io troverei in giardino oppure no? Tocchetto, ci dica. Comunemente nei nostri fossi, nelle nostre paludi, nelle nostre rive dei fiumi. Sono piante autoctone per l'Italia, ma autoctone anche in qualsiasi altro posto del mondo vogliamo utilizzare questi sistemi galleggianti, perché non posso portare piante dall'Italia in Sudafrica o dal Sud America all'Alaska, quindi devo sempre cercare delle piante adatte a quel clima, a quelle acque, a quelle correnti. Ecco, e che cosa riescono a ripulire però di un fiume, dell'inquinamento di un fiume? Generalmente riescono ad assorbire l'azoto, il fosforo e le componenti organiche che vengono messe a disposizione dalle comunità batteriche che si sviluppano nelle radici. Tutte le piante vivono di azoto e fosforo, quindi noi mettiamo le piante in acqua e assorbono proprio l'azoto e il fosforo che danno fonte di eutrofizzazione e inquinamento. Quindi quello che per noi è uno scarico, per le piante è una forma di alimentazione? Esattamente. Esattamente, esattamente. Come il mais lo conciniamo con l'azoto perché ne ha bisogno per crescere, le nostre piante crescono con l'azoto presente nei reflui e nelle acque inquinate. Ecco, nei fumetti di solito le piante mutano. Cioè è una questione di comics, quindi di fantasia, però di solito c'è sempre la pianta che a contatto con l'inquinamento prende vita, muta, diventa qualcosa di diverso. No, in questo caso l'inquinante per la pianta è un alimento, perché la pianta mangia azoto nitrico, azoto ammoniacale e fosforo. E non gli succede nulla, non diventa più invasiva, attacca magari l'ambiente, l'uomo, come il fumo, No, ci mancherebbe. Poi le nostre sono confinate nel sistema galleggiante, quindi da lì non possono scappare. Quindi sono su un'isola, su una specie di imbarcazione? È una piattaforma galleggiante con 8 fori particolari dove noi leghiamo le piante. Ecco. Poi oltre a depurare, questi isolotti galleggianti riescono ad ospitare anche fauna selvatica, perché numerose volte troviamo nidi di gallinella d'acqua, di folaghe, bisce d'acqua, rane, libello. Quindi diventa un'oasi? Sì, diventa un'oasi galleggiante in specchio d'acqua. Ecco, due cose. La prima è come mai... Perché si sente da parlare già da alcuni anni, insomma, di utilizzare le piante in una chiave di lotta all'inquinamento, però poi di fatto a livello industriale ci sono moltissimi esperimenti virtuosi in giro, però a livello industriale non ci si crede poi tanto. Qual è il problema, qual è il tricky, qual è la cosa che non è stata ancora riusciti, che non riuscite ancora a superare per... Io lo dico da giovane, un po' la mentalità e queste generazioni che non vengono avanti, perché se magari andiamo in Danimarca o in qualche altro posto un po' più virtuoso dal punto di vista ecologico, può essere che questi sistemi siano molto più sviluppati. Da noi facciamo sempre un po' fatica perché devono essere sempre gli altri a fare le cose prima di noi. Ma è un problema culturale? Sì, secondo me sì, perché io ci lavoro dal 96 nella fitoepurazione, quindi vedo proprio che c'è questo volano che gira, che gira, che gira, e poi questi spot positivi che fanno impianti di fitoepurazione. Però c'è sempre questo volano che gira, che gira, che gira. Ma non è che non conviene, cioè il problema è che per convenire conviene, perché risparmio energia, risparmio elettricità, non ho emissioni in atmosfera, ho costi di gestione bassissimi poi. Ma quante piante servirebbero però per uno scarico? Cioè se io immagino uno scarico industriale, per esempio, oppure uno scarico di una città, quante piante dovrei mettere sui sistemi galleggianti? Vorrei fare il mago, ma non lo sono, quindi vorrei metri cubi, analisi delle acque, livello di inquinamento, eccetera. Comunque generalmente per un'abitazione di 4 persone, quindi di 4 abitanti equivalenti, l'impianto di fitoepurazione è sui 15-20 metri quadri. Ah, beh, insomma... E poi si viene a realizzare un giardino fiorito nella propria casa, insomma. È bello però. È un piccolo giardino in più. Sì, no, infatti. È un giardino fiorito e alimentato con i nostri reflui, quindi non serve neanche dargli a bere. Non ci sono odori, non ci sono problemi, insomma. Va bene, Tocchetto, in bocca al lupo. Noi magari ti ricontatteremo, nel senso che l'idea appunto è quella di andare a declinare l'acqua, il ferro e Odino, non c'entra nulla, però insomma gli elementi principali e le start-up che si riuniscono intorno a questi elementi principali per creare innovazione, per cui insomma restate in contatto con noi, ascoltateci che continueremo a raccontare questa storia. Ed ora passiamo a un'altra storia. Sempre una storia che inizia dall'acqua, sempre una storia che riguarda la depurazione, però è legata anche a un trasferimento tecnologico dai laboratori dell'università a una tecnologia. Lo spin-off si chiama FEM2 e abbiamo una scheda di Luca Dello Jacopo. Un test per misurare la qualità dell'acqua a casa. L'idea viene dall'Università Bicocca di Milano. Le ricerche scientifiche dello Zooplant Lab hanno portato alla fondazione di un'azienda, FEM2. L'intuizione è nel trasferimento tecnologico dal laboratorio al mercato. I test controllano le caratteristiche dell'acqua nel chilometro zero, prima del rubinetto. FEM2 conta su un team di 5 persone. I test sono prodotti dall'organizzazione non profit Penne Nere. Il ricavato delle vendite finanzia la costruzione di case per disabili. E noi abbiamo con noi Massimo Labbra, che è un cofondatore di FEM2. Buongiorno. Buongiorno. Una cosa che non c'entra nulla, ma è un tema. Ma voi riuscireste ad andare all'Ambro per capire esattamente che cosa è successo? Perché c'è un po' un giallo lì intorno. Guardi, in una prima battuta siamo anche stati coinvolti insieme a dei colleghi di Legambiente, proprio ai gestori del parco Valle Lambro, per fare delle analisi, delle valutazioni sull'Ambro, e abbiamo presentato dei progetti per fare proprio dei test sull'avifauna, sui pesci e anche sulle piante, le alghe dell'Amur, per vedere realmente qual è l'impatto ambientale, diciamo, di quello che è successo e soprattutto di quello che succederà, insomma. E quanto tempo servirà per recuperare l'ecosistema? Purtroppo, ahimè, gli animali e le piante reagiscono in maniera diversa da specie a specie, quindi per ripristinare il tutto non è così facile fare delle previsioni. Diciamo, ci sono pesci piuttosto che piante molto più tolleranti, che magari nel giro di alcuni mesi riescono a ripristinare se, diciamo, la matrice petrolio viene eliminata, altri che magari non ritornano più. Quindi quali sono gli interventi più importanti poi per riuscire a fare qualcosa in una prima fase? Ma dunque, guarda, io allora insegno all'università biodiversità e la cosa che dico sempre è che la prima cosa da fare è eliminare il problema che ha causato il disastro, quindi bisogna sicuramente ripulire le acque in maniera, diciamo, concreta e ingente, perché poi è inutile fare delle reintroduzioni, dei rafforzamenti eccetera se il problema persiste, no? Quindi sicuramente una pulizia. Poi successivamente bisognerà via via ripartire dalle piante, diciamo, più primordiali, quelle che inizialmente iniziano a creare l'ecosistema base, dal quale poi si può creare l'ecosistema più complesso. Una reazione a catena verde, insomma. Esattamente, esattamente. Nova Lab 24. Davide Tocchetti di PAN ha sentito la domanda: stiamo provando a risolvere il problema della macchia di petrolio. Una sua proposta. In serenità. La macchia del petrolio in Louisiana farei fatica a depurarla, però avrei qualche buona idea per il Lambro. Dopo che ci hanno tolto un po' di petrolio galleggiante, potremmo sicuramente inserire i sistemi galleggianti, perché numerose piante vivono a contatto con metalli pesanti e idrocarburi. Ma quindi le piante contro il petrolio non possono fare nulla? Contro il petrolio tal quale no, però gli idrocarburi riusciamo a fare qualcosa, perché le piante riescono a bloccare, non a assorbire, ad bloccare nell'apparato radicale il flusso di inquinanti, quindi lo tengono e lo trattengono come un filtro fisico. Ringraziamo Davide Tocchetto. Massimo Labra. Certamente, diciamo, le grandi apporti di petrolio dovute da queste catastrofi non sono facilmente risolvibili, diciamo, solamente con delle tecniche di bioremediazione. Queste potrebbero aiutare nel tempo, lì bisogna fare dei veri e propri interventi di ingegneria e di biorecupero, ecco. Diciamo che si sta lavorando sulla strada giusta, cioè si sta provando tutto quello che... Quello sicuramente. Io penso questa cosa, che in generale per l'acqua, meglio come per tutto, meglio prevenire per curare, voglio dire. Noi abbiamo pensato al nostro kit, perché l'obiettivo di questo kit era far vedere alla gente che l'acqua del proprio rubinetto è generalmente di buona qualità e come tale non va sprecata e non va inquinata. Mi è piaciuto molto che prima di me sia intervenuto il collega che parlava di bioremediazione, di fitoremediazione, quindi di qualità nuovamente delle acque, perché tutti questi passaggi possono aiutare a migliorare l'ambiente, quindi magari non trovarci di nuovo davanti alle maree nere del Lambro, a casi di questo tipo, perché guardi, anche con i gesti quotidiani ognuno di noi un po' contribuisce a inquinare. Ecco, e voi avete unito anche la sostenibilità ambientale con quella sociale, perché poi i ricavi del vostro spin-off vanno a finanziare poi un'organizzazione non profit. Allora, diciamo per correttezza, il media test acqua, che è questo kit, viene assemblato da questo spin-off, quindi noi l'abbiamo sviluppato, viene assemblato da questo spin-off, noi ovviamente contribuiamo con del denaro a pagare l'assemblaggio di questo spin-off e loro con questi soldi costruiscono appunto case, famiglie per disabili medio gravi. Ci piaceva l'idea, insomma, di riuscire in qualche modo a produrre un prodotto innanzitutto tutto italiano, perché nasce dal nostro laboratorio, arriva nelle case degli italiani, viene assemblato da una spin-off, viene distribuito da distributori italiani, quindi un prodotto che per una volta non ci sono le fughe dei cervelli, richiami eccetera. Possiamo lanciare un'alleanza, nel senso che poi io dello IACO siamo qui che ci poniamo il tema di giornalismo partecipativo, insomma, di fare le inchieste anche eccetera. Scienza partecipata, esatto, insomma, se ci date una mano magari venite in giro con noi a misurare l'acqua e vediamo anche di scoprire qualche cosa, no? Perché no? Guarda, noi siamo stati a Parma, per esempio abbiamo trovato in tutti i 17 quantieri dell'acqua eccellente con il nostro kit. Quindi, come dire, i cittadini di Parma possono dormire sonni tranquilli. Ecco, quando la trovate che non è eccellente, ci chiamate. Ripeto, appunto, l'obiettivo è anche quello di informare, perché no, gli acquedotti, gli enti di distribuzione, dire: guardate, noi abbiamo trovato dei fuori parametro, cosa ne pensate? Miglioriamola. E io, il prode dello IACO, siamo qua, pensa a te, ci lanciamo in questa cosa. Grazie, io vi ringrazio e voltiamo pagina, cambiamo completamente argomento, parliamo della Divina Commedia per iPad. Siamo in collegamento con Gualtiero Carraro della Carraro Multimedia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi avete realizzato un'applicazione per iPad. Noi lo diciamo perché anche oggi è il Salone del Libro, per cui volevamo dare il nostro contributo, insomma, alla nostra visione, insomma. Che arriva fino alle radici poi della letteratura italiana. Insomma, voi avete portato Dante dentro l'iPad, creando, insomma, un girone infernale completamente toccabile, si dice così? Beh, direi tutta la Divina Commedia consultabile attraverso una nuova esperienza, perché tale è l'iPad, non è niente di tradizionale, diciamo già visto, quindi direi che l'applicazione può essere definita ebook multimediale, quindi un libro elettronico che però ha una caratteristica di essere tattile, si può toccare e manipolare ed è audiovisivo. Vabbè, ma Beatrice come l'avete fatta? Beatrice è stata rappresentata in forma classica, in realtà noi siamo partiti dall'iconografia tradizionale, noi abbiamo fatto una miniatura digitale, cioè fin dall'inizio la Divina Commedia fu ampiamente illustrata e noi abbiamo attinto moltissimo da questo. Quindi grande tradizione. Ci posso giocare un po' con Dante? Posso tirarlo, ingrandirlo, fargli qualcosa, fargli dispetti, no? Ma assolutamente sì, la scelta nostra è stata quella di creare sì un libro, ma che sia una nuova forma di intrattenimento, cioè in sostanza è stato sviluppato con dei sistemi che vengono utilizzati normalmente per fare dei videogame. Quindi un sistema di sviluppo tridimensionale, io posso manipolare il mondo di Dante, entrare nell'inferno, scalare la montagna del purgatorio, visitare i principali ambienti ricostruiti con illustrazioni 3D, con all'interno però ovviamente la selezione dei versi più famosi, quindi io vado a associare visivamente, come succedeva appunto negli affreschi delle chiese oppure anche nelle miniature, il verso originale con un immaginario che però è una sintesi tra la tradizione iconografica degli illustratori dell'antichità e il tridimensionale di oggi, quindi qualcosa di comunque inedito sicuramente. Credo che chi lo potrà consultare farà un'esperienza davvero nuova. Quando esce? È già in uscita adesso negli Stati Uniti. E in Italia? Tra l'altro ricordiamo che dentro c'è anche il Sole 24 Ore, per cui insomma è doveroso ricordarlo. Sì, in Italia esce in concomitanza con l'uscita di iPad, che è prevista a fine di maggio. Quindi siamo, diciamo, direi il Sole 24 Ore l'ha definito il primo libro ebook multimediale, in effetti siamo proprio all'alba, forse ancora un po' prima dell'alba, perché in effetti in questi giorni ancora non è acquistabile in Italia sostanzialmente, ecco. E quindi si vedono anche tutti quei personaggi all'interno di questo della Divina Commedia, che poi sono quelli famosi Caronte insomma. Sì, allora, Caron Dimonio dagli occhi di Bragia ad esempio, ecco. Allora la Lacheronte, allora, come c'è una sezione che è un percorso per immagini, è come una miniatura che posso sfogliare con le dita facendo passare immagini, sono in realtà oltre 700 immagini. Accidenti. Che ricostruiscono tutto il viaggio di Dante associato con i versi direi più famosi ma anche più comprensibili. Comunque deve essere divertente, farlo è divertente. Cioè, secondo me ne vedremo delle belle, sarà il tutto una nuova forma molto divertente. Ci stanno facendo dei segni, il nostro tempo è scaduto. Io ringrazio i nostri ospiti di essere intervenuti. Ringrazio naturalmente Luca Dello Iacovo. L'appuntamento è domani alle 16:30. Nova Lab 24. Nova Lab 24.